America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24, la grande maratona elettorale di ieri notte è chiusa, una maratona che non è durata solo una notte ovviamente, ma che seguiamo da un anno, si è chiusa con una vittoria a tappeto dei repubblicani alla Camera. I democratici sono riusciti a difendere la maggioranza al Senato, ma comunque sia gli equilibri a Washington cambiano. Barack Obama ha perso il referendum sul suo operato. By any means, in Washington state right now, Patty Murray, the incumbent Democrat with 52%, Dina Rossi, the Republican challenger with 26%. Una notte che è cominciata con gli exit polls un po' dappertutto. Qui avete ascoltato un exit poll del Washington State, ma più i risultati arrivavano, risultati che anticipavano poi il conteggio finale, più ci si rendeva conto che i repubblicani, il giovane movimento dei Tea Parties, questi patrioti, difensori della Costituzione, di quello spirito americano che Barack Obama e i democratici, secondo la loro campagna elettorale, avrebbero distrutto in 2 anni di governo statalista, dicevo, questi nuovi volti dei repubblicani hanno vinto, hanno riconquistato ieri notte, dopo una delle più polarizzanti elezioni degli ultimi anni, il controllo della Camera. Vi dicevo che il controllo democratico del Senato è ridimensionato, però è salvo. Harry Reid, l'anziano presidente della maggioranza, ce l'ha fatta contro Sharon Angle in una delle corse chiave che vedeva schierati da una parte il vecchio establishment e dall'altra un'eroina dei Tea Parties. Ci sono stati dunque dei democratici che hanno fatto bene, che sono sopravvissuti, ma se dovessimo vedere una cartina geografica dell'America sulle elezioni, soprattutto alla Camera, ci sarebbe soprattutto il colore rosso, il colore cioè dei repubblicani. The Republicans are largely supportive of much of the Tea Party agenda, especially when it comes to cutting spending. Avete sentito David Gergen, uno dei più grandi commentatori politici americani. Il suo focus è sui Tea Parties, sul fatto che il Partito Repubblicano dovrà adattarsi a questa nuova realtà che ha portato alla vittoria Marco Rubio. Lo abbiamo intervistato qui ai microfoni di America 24. Marco Rubio, un giovanissimo contendente per il Senato della Florida, ebbene ha vinto contro Crist, che era il governatore dello Stato. E poi il controverso Rand Paul del Kentucky. Sono due candidati celebri, sono matricole dei Tea Parties, la vera forza nuova di queste elezioni del 2010, come dice David Gergen. In Pennsylvania una corsa chiave, ha vinto Tom Tooney contro Joe Sesta, che era un democratico importante, è stato sconfitto. In Wisconsin è caduto un altro dei grandi senatori democratici, Rance Feingold contro Ron Johnson. John Brewer, forse la ricorderete, è la governatrice, il governatore dell'Arizona, un personaggio che divenne famoso per una legge molto discussa, quella che cercava di punire, penalizzare gli immigrati illegali arrestandoli per poi rimandarli a casa. Anche lei ha vinto, è stata confermata. John McCain è stato rieletto sempre in Arizona. Dunque un risultato che mette al centro di questa nuova equazione politica i Tea Parties, non soltanto al Senato ma anche in moltissime corse alla Camera. Si calcola che almeno un centinaio di candidati abbiano corso sotto la bandiera dei Tea Parties e dunque molti di loro hanno sicuramente vinto. I spent my whole life chasing the American dream. All right. Lacrime, emozione, voce rotta nel momento della vittoria. La voce che avete ascoltato è quella di John Boehner, il nuovo capo della maggioranza repubblicana alla Camera. Prenderà il posto di Nancy Pelosi, una donna che avevamo conosciuto da vicino, una donna di origine italiana, la prima donna a guidare la Camera. Ma veniamo al messaggio politico, perché non è secondario. Proprio ieri Boehner ha detto qualche cosa di molto concreto, al di là delle sue lacrime, che devo dire sono state toccanti. Apriamo una parentesi, è un uomo, Boehner viene dall'Ohio, è stato eletto in Ohio, cresciuto in una famiglia con altri 11 fratelli, è cresciuto in povertà, in quella povertà bianca che si vede nelle grandi pianure di questi stati decentrati negli Stati Uniti d'America. Ha ricordato ieri sera di aver fatto i lavori più umili ed è lì che gli si è così spezzata la voce per pagarsi le tasse universitarie per poter andare avanti. Ed è arrivato il messaggio politico chiaro di Bonheur. Ha detto: c'è stato un cambiamento di rotta, mi domando se il presidente rispetterà il volere del popolo, se lo farà saremo pronti a lavorare con lui, ma il messaggio è chiaro, si chiede una riduzione del ruolo del governo, un ridimensionamento dell'intrusione di Washington nella vita dei cittadini, un recupero del rapporto di fiducia fra il popolo e il governo, un aiuto per le piccole imprese, quei valori insomma che rendono l'America America. La risposta di Barack Obama è attesa fra poche ore, parlerà nella mattinata a Washington, il presidente è combattivo ma lui stesso cercherà di tendere la mano ai vincitori con un primo obiettivo bipartisan, superare la scadenza dei tagli fiscali dell'ex presidente George W. Bush. This time of course we have a first lady which we didn't have last time. I think that's going to be the real difference. Jerry Brown, nuovo governatore della California, ha battuto un record, pensate, nel 75 fu già eletto governatore della California e fu allora il più giovane governatore della California, oggi è diventato il più vecchio governatore della California, dunque un altro record. Ha battuto Meg Whitman, una grande manager di Silicon Valley che aveva speso 140 milioni di dollari del suo portafoglio personale in questa gara. Whitman aveva di fatto creato o reso grande il colosso dell'informatica eBay. Un altro personaggio di Silicon Valley, Carly Fiorina, è stata battuta nella corsa al Senato da Barbara Boxer. Dunque in California hanno vinto i democratici. Per una volta la nuova frontiera ha guardato all'indietro verso chi era già stato eletto 30 anni fa e non in avanti. But there are those who say the Republican establishment is going to try to co-opt the Tea Party. Confusione nel post elettorale nel tentativo di leggere questi risultati, lo avete sentito da questo dibattito di nuovo in una delle reti televisive americane. Da oggi si volta pagina per tutti. Per il Partito Democratico, che dovrà riflettere sull'opportunità di moderare le preferenze liberal di sinistra degli ultimi due anni che hanno dominato il Congresso a scapito di movimenti centristi come i Blue Dog o il vecchio Democratic Leadership Council, nidiate del Sud che formarono il successo della terza via di Bill Clinton. Per il Partito Repubblicano il partito dovrà scegliere se governare o restare sulla linea del muro contro muro che finora ha pagato ma che potrebbe colpire negativamente con ritorni di fiamma ora che si condivide il potere. Per i Tea Parties infine, che dovranno decidere se esprimere un leader o se ammainare la bandiera della protesta, ora che un centinaio di loro fra deputati e senatori sono arrivati a Washington. Decisioni urgenti perché il prossimo appuntamento importante, le elezioni del 2012, è già dietro l'angolo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. A febbraio uscirà il nuovo album dei Cat Copy che cercheranno di ripetere il grande successo di due anni fa. Il disco si chiamerà Zonoscope dei Cat Copy, Lights and Music, luci e musica, per festeggiare la fine di una corsa elettorale. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.